detto Carmela, che c'era uscito una batteria dentro con il microfono come si agita. E infatti sicuramente è quello lì, perché adesso l'ho ridato una spuntatina e sembra che ha ripreso bene. dice, ho avuto un signore questo, vanno a salutarti. Mi hai detto quello che c'è? Sì. Certamente che sì. Ma che non ci può parlare? Infatti ce n'è fino a 7 qua. Figurati, non ti sento una cosa, anche se di qua c'è la 9 più. E buonare. E la luce l'ho sentito, ha finito. E ha finito, si stava bevendo una cosa perché l'ho chiamato a telefonino. Per poi confermarmi c'era quel Mauro che conoscevo io, infatti c'è lui. E niente. Mentre stava bevendo una cosa con lui. Infatti mi ha detto, guarda che certo non c'è problema, ha detto tu a me, quando lo prendi questo sabato domenica mattina mi avvicino e ti guardi il collegamento. Perché si vuole prendere il microfono come quello che ci vuole da tavola, no? E farsi il stesso collegamento. Più 4, ce l'ho io, quello ma non si mette mai con barchino. Va bene, va bene, non c'ho più fuori. Non so se sta ripetendo qualcuno, ma io non sento nessuno, c'è cioè, qua Roma e Roma, pronto e Roma, e quindi niente. Ma no, poi voglio farlo via, ci sentiamo se coincide che se mi fate parlare a telefono e c'è un telefono occupato, la telefono con te. Va bene, ci sentiamo, ma fate la voglia con lui, hai capito la tua volta, allora ti metti con la frequenza e tu vuoi vedere se da Marchino senti qualcuno, capito? Grave, ma la porta presso uno e l'altro, non c'è problema. Ciao, buona domenica, no, se non ci sentiamo in stazione alle prossime, ciao ciao. Ehi, ciao Claudio, ciao ciao. Sito anche sul profilo Facebook perché è spezzata, capite, tutta a pezzi. Scrivere tutto, ma è bello vederla unica, così come adesso è bello vederla unica, che è tutta messa a posto. E quindi siamo tutti in via Calassini, tutti quelli che tu sai, ci siamo tutti. Una mattina io arriverò verso le 10:30, 11, perché sono al lavoro, quindi appena ho terminato aspetto lì al solito posto. Salve a Gianni, tutti quanti, ci prendiamo il caffè, quindi ti pensiamo domani, ok, tu prendi la berchina e pensi a noi. E beh certo, quindi non c'è problema, no? E così mai ci rimediamo un'altra domenica, che non esco. Tanto l'altra domenica non esco, quindi se salite vi trovate attorno, ci faccio un salto. No, tutte le domeniche ci vediamo, capito? Tutte le domeniche siamo lì. Adesso c'è un barattino in macchina anche io, domenica, figurati, non mai adesso. Ci vediamo lì. Manca la Fabrizio, perché non c'è, che è a Milano, ma gli altri già ci vediamo tutti, Ok, ma la sempre, Sabri, ma invece no. Dai, ci sentiamo, amore. Ci aggiorniamo allora domani, quando rientri. Ciao, saluti a casa e ci sentiamo. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Saluti a tutti. Intanto, come stanno il nostro fratello? Dai, infatti saluti a tutti, dopo c'è venuto male, saluto la famiglia. Ok, e ci sentiamo, grazie.